Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata della Mucca Libera. Anche questa sera abbiamo una serie di notizie molto interessanti provenienti dal mondo della resistenza animale. Prima di iniziare con le news, voglio ricordarvi innanzitutto quelli che sono i nostri contatti. Potete scriverci alla mail lamuccalibera@autoproduzioni.net. E poi è importante seguire il nostro canale Telegram, La Mucca Libera, con tutte le notizie e i podcast della trasmissione. Cominciamo subito con le notizie di questa settimana e cominciamo dalle notizie che arrivano dal mondo, diciamo, ecologico, con un rapporto pubblicato in questa settimana che affronta la questione dei prodotti di plastica monouso, però specificamente all'interno dell'industria dei viaggi e del turismo. E infatti è un rapporto che è pensato proprio dal World Travel and Tourism Council, per cui l'attenzione è tutta puntata dalla questione dell'utilizzo all'interno del mondo del turismo. Anche perché, come scritto anche nel rapporto, siamo in un momento in cui in tutto il mondo comincia a ripartire il settore del turismo, che è sicuramente uno dei settori più colpiti, in alcuni casi anche in maniera, diciamo, devastante dalla pandemia di Covid-19. Questo rapporto è considerato da chi l'ha formulato una sorta di primo passo in un percorso molto più lungo, in cui si vorrebbe proprio arrivare a mappare tutti i prodotti in plastica monouso lungo tutta la catena del settore turismo, in modo tale da poter identificare quelli che sono i punti critici dal punto di vista ambientale e fornire poi delle raccomandazioni anche di natura pratica per tutte le imprese che si occupano di turismo. Infatti, in questo primo rapporto devo dire che in realtà le raccomandazioni che vengono fatte sono molto generiche, riguardano il concetto generale di ridefinizione dei prodotti in plastica monouso che vengono utilizzati all'interno del settore viaggi e per poter dare la preferenza a quei prodotti e a quelle ditte che producono della plastica che sia prevalentemente non monouso. Sono quindi appunto raccomandazioni molto generiche e credo comunque molto orientate o comunque molto lette con l'ottica di chi lavora nell'azienda del turismo. Infatti, in un certo punto, in un passaggio, si dice che nonostante diciamo sia innegabile che la pandemia da Covid-19 abbia peggiorato la situazione rispetto all'utilizzo dei prodotti in plastica, soprattutto monouso, d'altra parte si dice che la pandemia ha incentivato il turismo green, quindi con una definizione di turismo green che è molto aleatoria, non ben definita e soprattutto in un momento appunto di pandemia in cui il turismo era sostanzialmente fermo, quindi restano molti dubbi su questo tipo di rapporto e sull'incidenza effettiva che poi possa avere rispetto a una riduzione dei prodotti in plastica monouso. Ma a parte questa considerazione, quello che mi ha colpito è che il rapporto vuole appunto essere un primo passo all'interno della possibilità di ridefinire l'utilizzo della plastica in previsione di ulteriori pandemie, quindi utilizza il plurale riferendosi ad eventi futuri, tra l'altro non come probabilità ma come effettiva realtà. Quindi mi chiedo se le aziende sono già così consapevoli della dimensione tale per cui di sfruttamento del nostro ambiente e delle altre specie tali per cui noi dobbiamo necessariamente aspettarci altre pandemie. Beh, se lo fanno le aziende, perché non riescono a farli i governi? Adesso una notizia molto importante, una notizia che leggo con grande emozione perché si parla di una fuga da un mattatoio di 40 mucche. Siamo nella zona di Los Angeles, Pico Rivera. Questo gruppo di 40 mucche sono fuggite da un mattatoio che si chiama Manning Beef al numero 9500 di Beverly Road, appunto in California, approfittando di una porta lasciata aperta e custodita. Purtroppo questa fuga è stata di breve durata, perché le mucche sono state scortate dalla polizia fino ad una strada senza uscita e lì sono state catturate. Di queste 40 mucche, una è stata anche uccisa, le altre invece sono state riportate nel mattatoio. Questa è una notizia molto, molto drammatica e purtroppo veramente è una notizia che fa male. Comunque bisogna sottolineare innanzitutto la resistenza animale, che c'è sempre, anche in questo caso, un'azione eroica da parte di queste mucche resistenti. Una di queste mucche, visto che c'è stato anche un grosso clamore sui media, infatti una notizia che ha girato veramente il mondo, una di queste mucche è stata, diciamo, c'è stato l'intervento di un'attrice che si chiama Diane Warren, appunto perché siamo nella zona di Los Angeles e comunque c'è anche un'attenzione mediatica da parte di alcuni personaggi dello spettacolo. Diane Warren che si è attivata per portare almeno una di queste mucche in un rifugio della zona. Ne parliamo spesso, anche in America ci sono dei rifugi, dei santuari per animali e in questo caso la fuga di queste mucche ha attirato l'attenzione da parte delle attiviste e degli attivisti per i diritti degli animali e quindi una almeno di queste mucche resistenti è stata liberata e la sua fuga ha avuto un risultato positivo. C'è da dire però che se le altre sono state riportate, in realtà sono rientrate solamente 38 delle mucche che erano fuggite, perché una è stata brutalmente uccisa da un colpo di pistola da un agente della polizia. E dalla resistenza animale passiamo invece alle azioni di solidarietà da parte degli animali umani a situazioni di specismo. C'è stato in questi giorni, pochi giorni fa, un blitz animalista all'interno di una fattoria, un'azienda agricola che si trova in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Quello che è accaduto è che sono state danneggiate alcune serre, sui muri sono comparse varie scritte, fra cui giù le mani dalle lepri, avete le mani sporche di sangue ed altre, che si riferiscono evidentemente alle attività di cattura e poi delle lepri che vengono catturate e allontanate perché causano dei danni alle coltivazioni dei dintorni, azioni di cattura ed allontanamento che sono svolte proprio dall'azienda in questione tramite delle guardie. Accanto alle scritte è stata trovata anche la firma che è dell'associazione ALF, cioè Animal Liberation Front. Allora, parliamo di una situazione che è successa a Roma. Dal Panino si va in piazza. Questo è il titolo di una statua che è stata realizzata da uno scultore che si chiama Medeo Longo, scolpita in un blocco di travertino, tra virgolette, la porchetta, con tanto di testa di suino e incisioni sulla pietra a ricordare la cotenna legata. Questa statua è stata esposta nei giorni scorsi nel cuore di Roma, in piazza San Giovanni della Malva, per iniziativa del primo municipio, con il patrocinio del Campidoglio, ovvero del Comune di Roma. Lo scultore ha affermato che la porchetta è un alimento tipico laziale, ironico e beffardo, capace di alimentare la goliardia, ma anche di generare il confronto. Queste le sue parole. Ora il confronto, tra virgolette, c'è stato perché fortunatamente molte persone si sono ribellate a questo atto, direi veramente macabro e di pessimo gusto, perché la porchetta, tra virgolette, ricordiamo, altro non è che un cucciolo di maiale che viene arrostito intero per poi essere affettato. Sempre in tema di azioni firmate Animal Liberation Front. Questa statua è stata imbrattata da pittura simboleggiante, diciamo, il sangue, e poi è stato scritto stesso sulla statua, è stata messa la firma dell'Animal Liberation Front per dimostrare tutta l'avversione delle attiviste e degli attivisti a un obbrobrio tale che simboleggia la morte e l'uccisione dei poveri maiali. E continuiamo a parlare di azioni da parte di animali umani in solidarietà ad altre specie e ci spostiamo questa volta però all'estero, parlando della Cina. È una notizia che è girata abbastanza sui media perché fa sempre piuttosto scalpore il pensare che ci si possa cibare di animali considerati da noi domestici come cani. Ma in realtà in Cina, precisamente nella città di Yulin, ha luogo un festival della carne di cane che si svolge ogni anno proprio all'inizio del solstizio d'estate, pardon, difficile da dire, solstizio d'estate. 68 cani Fortunatamente però sono stati salvati poche ore prima che arrivassero nel luogo dove dovevano essere massacrati per poter poi diventare carne per questo festival. E per questo salvataggio dobbiamo ringraziare un gruppo di animalisti locali che si trova in Cina, che hanno fermato il camion che era carico di cani, sulla strada verso i macelli, di Yulin. E hanno convinto l'autista a consegnare i cani. I 68 cani sono stati trovati in condizioni pessime da parte degli attivisti, erano ansimanti, erano esausti, erano stipati in gabbie arrugginite, soffrivano per il caldo estremo, non avevano cibo, non avevano acqua. E c'è da dire che quando gli attivisti si sono avvicinati a queste gabbie, i cani hanno iniziato addirittura a mostrare dei segni che noi sappiamo tipici di quelli che noi consideriamo animali domestici, come per esempio allungare le zampe per toccare l'essere umano. E la maggior parte di loro hanno dichiarato, gli attivisti sembravano anche essere dei cani rubati, cioè dei cani abituati ad essere in contatto, dei cani proprio domestici, abituati ad essere in contatto con l'uomo, con l'essere umano, e quindi hanno pensato che siano stati proprio rubati alle loro famiglie. I cani però adesso sono salvi e sono arrivati sani e salvi in una struttura. Si sono riposati, si sono ripresi, hanno ricevuto le cure ve veterinarie necessarie e durante il viaggio verso questo luogo di riposo e di rifugio, una cagnolina che era lì ha dato anche alla luce due cuccioli. Questo festival, lo Yulin Dog Meat Festival, è stato proprio creato dai commercianti locali cinesi che commerciano carne di cane. Per aumentare, già diversi anni fa, nel 2010, per aumentare le vendite che sembravano essere in calo. È fin dal 2010 che gli attivisti, in Cina cercano di opporsi al festival e cercano di evitare che esso si svolga, ma è pur vero che quel festival è solo l'espressione massima di un grande commercio che in realtà dura tutto l'anno, per cui le loro azioni sono sempre rivolte affinché si possa porre fine al commercio di carne di cane e anche di carne di gatto. E in realtà alcuni spiragli, diciamo, di speranza si sono avuti perché l'anno scorso, nel 2020, due città nel sud della Cina sono diventate le prime città cinesi che vietano assolutamente sia la vendita che il consumo di carne di cani e di gatti. Così come ultimamente il Ministero dell'Agricoltura ha in una dichiarazione ufficiale dichiarato che i cani sono degli animali da compagnia e non sono cibo da mangiare. Per cui, sull'onda di queste prime vittorie, gli attivisti cercano in ogni modo di contrastare, anche con posti di blocco, con delle azioni molto forti, cercano di contrastare questo terribile commercio. Too much caffeine is not good for you, and I know it's so easy because I myself, in the old days, used to drink. Prende il nome da uno dei primi ospiti, un maiale che si chiama Miki, che dopo aver vagato in un paese del nord della Sardegna in cerca di cibo e riparo, del tutto privo di segni identificativi previsti dagli allevamenti ufficiali, Quindi parliamo presumibilmente di una fuga da uno di quegli, diciamo, degli allevamenti abusivi da parte di Miki. È stato tratto in salvo dalla fondatrice, che si chiama Alessia, fondatrice del rifugio, che ha avuto questa bella iniziativa, ha fatto questa bella iniziativa di fondare questo rifugio per animali, che ha voluto intitolare a questo maiale che appunto si chiama Miki. E adesso direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. Ascoltiamo i Colle del Fomento. Ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Questo è il falceri della sfiga, da quando misurano la musica in giga. Potere della lirica, la messa è finita, la tua festa è finita, giù la testa zio, manna la sigla. Dentro la sfida, voce cruda, parola nuda, occhi bruciati dalla vita. Se la vita è dura, è solo un modo per guardare dalla serratura. Bruciano i sogni e non capisci che è una fregatura. Sul palmo l'ultima spiaggia, un'ottima occasione per chi se la spiaggia. E chi se la spiaggia, vibrazioni come me. Perché c'era una volta ma adesso non c'è, zio, adesso non c'è un buono, un brutto, un cattivo. C'è solo un isterico, infame destino. Non conta se pari ma se spari per primo, per pugno dei dollari o per tutto il bottino. Ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Tutto il mozzico viene da una botta de sperone, sangue sopra il patto, al posto della bocca c'è un cannone, c'è la mota, mando fuori rotta e carrozzone, molte tocca, niente pronto per la collisione, che carico ogni mia parola in modalità ostile. Se te c'hai la pistola, qui c'è l'uomo col fucile, strofa a canne mozze, caricata a sale, è legge marziale, e tolleranza zero sulla strumentale, a passe male, ma sfido sto destino, becchino, sul pigia dal cecco un cecchino, vedendo tutti al centro del mirino. Dall'ultimo al primo mastino, mai stato a capochino. Qui si fa la guerra e si combatte sul riso, all'Ivan Cliff, occhi semi chiusi in bocca un split. Assassino nella competizione, tu te pensi Tarantino, io so Sergio Leone. Ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Salire il fumo adesso, il dramma è perfetto. Dietro ogni canna ci sta un cane e un grilletto. Io non te l'ho detto che sapore all'acciaio. Sono colpi di moschetto, sono fiamme di mortaio. Sono un migliaio di peso spersi in partenza. Dopo l'attacco al treno, l'assalto alla diligenza. Fai con la dissolvenza, piano sequenza. Al centro c'è il biondo, dunque è sentenza. La differenza è che si sente per davvero tra chi tiene il microfono e chi scava al cimitero. Col punch e il sombrero, il monco e mescalero. Questo è Far West e ognuno qua è uno straniero. Sì. Ora il dinero sta sul fondo della bara. Quando la musica finisce tu raccogli e spara. Ma una cosa mi è chiara, se la trama è all'italiana, sarà una gara chi è più figlio di... Torniamo in voce dopo questo bel brano del Colle del Fomento per continuare con le nostre notizie. Una prossima notizia riguarda gli orsi, di cui noi parliamo tanto spesso nella nostra trasmissione e che tanto amiamo. Un orso marsicano purtroppo è stato investito nella notte tra il 24 e il 25 giugno, più o meno su una statale, più o meno all'altezza in zona L'Aquila. Quest'orso è stato sicuramente investito da un camion, sicuramente non ucciso sul colpo perché si è allontanato velocemente, ma non si è ben capito qual è la gravità delle lesioni che ha riportato. E sono in corso degli accertamenti nella zona per comprendere quanto effettivamente si sia ferito. Ovviamente non è l'unico episodio, spesso ne abbiamo parlato anche a questi microfoni, si tratta solo dell'ultimo di una serie di episodi, dei quali alcuni purtroppo sono stati anche per gli orsi e le orse coinvolte fatali. È da tempo che si parla di intervenire, di mettere in sicurezza quella statale, ed è, sarebbe un elemento fondamentale sicuramente per la sopravvivenza degli animali umani, ma anche per la conservazione dell'orso bruno marsicano. E nell'ambito di un progetto europeo già da tempo si è diciamo creata l'idea di predisporre una serie di interventi, per esempio l'installazione di dispositivi elettronici per evitare l'impatto tra la fauna e i veicoli che passino, così come anche dei pannelli per promuovere, diciamo, un comportamento alla guida che sia maggiormente responsabile anche rispetto alle altre specie. Ma si parla anche di installare reti che possano favorire l'uso di sottopassi, di sovrappassi che sono già esistenti anche da parte degli animali, in modo da evitare che attraverso sino la carreggiata. Speriamo che questo avvenga il prima possibile. E torniamo per un momento sul tema dell'inquinamento da plastica. Ne abbiamo parlato come prima notizia riportando il report uscito questa settimana, ma in realtà anche il WWF in questa settimana si è concentrato rispetto diciamo all'obiettivo di ridurre la plastica monouso inquinante, ed ha pubblicato un paper che si intitola "La lotta al Covid frena quella all'inquinamento della plastica", in cui sostanzialmente si ricorda che in questo biennio, che stiamo appena, l'anno appena trascorso 2020 e quello in cui stiamo vivendo 2021, in qualche modo doveva, secondo le considerazioni generali del WWF, segnare una sorta di svolta nella lotta ai rifiuti in plastica, ma in realtà è notevolmente peggiorato per una questione Covid. E infatti sappiamo bene che già solo per le mascherine che noi usiamo ogni giorno si stima che siamo a 7 miliardi di mascherine usate ogni giorno, e la loro conseguente dispersione ovviamente in natura ha un gravissimo impatto sul nostro ambiente, sulle specie che lo abitano, e addirittura si prevede che purtroppo, perché come dicevamo anche prima, la lotta alla pandemia, nonostante ciò che ci vogliono far credere, è tutt'altro che superata, si stima appunto che addirittura crescerà del 70% questa quantità enorme entro il 2050. Ovviamente i rifiuti in plastica che si trovano poi e che noi produciamo appunto in questo momento minacciano le altre specie, in particolare le tartarughe marine, inquinano gli habitat e quindi creano non poche difficoltà, e in particolare tra i numerosi oggetti usa e getta di cui abbiamo implementato l'utilizzo nel periodo della pandemia, le mascherine monouso che sono fatte in fibre di plastica sono proprio uno dei pericoli più grandi. Go left, up, right, up, right, down, right, up, right, down, right, down, left, head for the fruit, then finish off the dots. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on per un attimo ci spostiamo all'estero per iniziare a parlare anche un po' di ciò che accade negli altri paesi. Iniziamo da Israele. Entrerà in vigore tra 6 mesi, perché il decreto è stato già firmato, una legge nuova che vieta la vendita delle pellicce. Le dichiarazioni ufficiali dicono che renderà il mercato della moda molto più rispettoso dell'ambiente, molto più rispettoso degli animali. Viene escluso da tutto questo solamente l'abbigliamento religioso, e questo perché era sostanzialmente impossibile vietare l'uso di pellicce in quel paese, visto che appunto per abbigliamento religioso fanno parte dei vestiti tipici. Quello che mi viene da commentare è che però con questi passaggi Israele non fa altro che continuare a la sua operazione di washing, la sua operazione di ripulitura, che va da le situazioni, diciamo, le discriminazioni LGBT qui al vegan washing, quindi all'accoglimento di uno stile di alimentazione e di vita che sia più vegan, fino anche al greenwashing che ben conosciamo. Ma se da un lato cercano di rendere il mercato della moda o altro sempre più rispettoso degli ambienti e degli animali, pare assurdo che questo non vada di pari passo con uno stile di vita che sia molto più rispettoso anche degli animali umani. Quindi restiamo all'estero per continuare a parlare di ciò che accade negli altri paesi, ed è stata salutata come una grande vittoria anche la scelta del Regno Unito, del governo del Regno Unito, che dovrebbe vietare la prigionia degli elefanti negli zoo e nei safari, nel suo nuovo disegno di legge che parla proprio del benessere degli animali, diciamo animali rinchiusi, come dicono loro, animali custoditi, che dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno. Questo divieto sarà, l'idea almeno è quella del Ministro dell'Ambiente, ha dichiarato che questo divieto dovrebbe essere supportato anche da un successivo rapporto che riguardi proprio il benessere degli elefanti in cattività, e che contemporaneamente dovrebbe evidenziare l'impossibilità sostanziale di soddisfare i loro comportamenti naturali in un ambiente di custodia come appunto possono essere gli zoo e i safari. E sempre secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente, questo sarebbe solo un passo di una serie più ampia di riforme degli zoo che dovrebbe allargarsi. Noi sappiamo che gli animali selvatici e non soffrono una grande difficoltà, hanno tantissime difficoltà in condizioni di cattività, tra cui problemi fisici come per esempio artrite, ernie, ma soprattutto anche problemi di natura psicologica e mentale. Gli elefanti sono delle creature sociali complesse che vivono in unità familiari, camminano fino a 30 miglia ogni giorno per cercare cibo, e quindi in base a questo disegno di legge viene evidenziato che le loro condizioni sono incompatibili con la cattività. E oltre ad eliminare gradualmente gli elefanti dagli zoo, nel gennaio del 2020 il Regno Unito ha anche messo al bando i circhi con gli animali, però esclusivamente selvatici, per cui ha posto fine a una parte di sfruttamento degli animali a scopo di intrattenimento. Non è l'unico paese in cui viene vietato l'uso di animali selvatici nei circhi, l'elenco si sta allungando, ma quello che speriamo anche è che sia il pubblico a poter prendere coscienza delle crudeltà che appunto subiscono gli animali selvatici o meno che siano all'interno dei circhi, e che in modo tale che i circhi diventino sempre più una realtà lontana come un ricordo. Well, sempre in tema di zoo, all'estero una tigre siberiana che era tenuta in un recinto alto oltre 3 metri è riuscita in un primo tempo a fuggire e ha aggredito uno dei guardiani dello zoo uccidendolo. Lo zoo in cui si è verificato questo fatto è il Seaview Predator Park di Port Elizabeth, nella provincia del Capo Orientale in Sudafrica, nella costa meridionale. Pare che la recinzione elettrica fosse in quel momento in riparazione, quando la tigre ha tentato la fuga inizialmente con successo, ma purtroppo, purtroppo l'animale è stato poi sedato e ricondotto in gabbia. Quindi questo tentativo non è andato a buon fine, ma è un altro tentativo che ci dimostra come la resistenza animale sia sempre presente anche in queste condizioni di grande difficoltà. Appunto, qui parliamo di recinti elettrificati altissimi, però gli animali resistenti sono sempre, ci provano sempre con il loro eroismo e la loro resistenza. E prima di ascoltare nuovamente un po' di musica, vorrei leggere un comunicato di un collettivo che è Assemblea Antispecista, di cui abbiamo parlato molto spesso ai nostri microfoni, che parla di carcere e deportazione tra uman e non uman, e che mi è sembrato molto bello e che quindi vorrei leggervi. Il carcere e la deportazione, intesi come criminalizzazione della povertà e del dissenso e come codificazione e cristallizzazione di piramidi sacrificali e ordini gerarchici, è una costante che attraversa quasi ogni epoca della storia umana, rafforzandosi progressivamente fino a oggi, in cui il carcere diventa sistema e che per molti aspetti si riflette anche nella storia degli individui delle altre specie. Accanto allo smembramento e sfruttamento dei cosiddetti animali da reddito, nei mattatoi e negli allevamenti, che nonostante secoli di domesticazione continuano a evadere e a ribellarsi, si evidenzia anche il continuo e inarrestabile esproprio del territorio comune e della dimora ai danni degli animali ancora liberi. Sapiens, colui il quale spesso identifica più forte con migliore, sempre stato con naturale, realismo con oppressione, diverso con inferiore, subordinando ogni aspetto della propria vita al profitto, rimane incapace di agire in maniera concertata per una liberazione intra e interspecifica. Storicamente si sono date molte scintille di rivolta, da cui sono conseguiti visioni per il futuro e progetti di convivenza radicalmente altri. Mantenere vive queste scintille, potenziarle in nuove forme di lotta e nel superamento dei confini di specie è l'obiettivo che ci prefissiamo. Per questo ci poniamo anche come alleati e complici degli e delle orsi e orse detenute e detenuti nel carcere del Castellar. La cosiddetta tutela della biodiversità, anche quando realmente perseguita, quasi sempre implica la possibilità dell'annullamento dell'individualità, la sacrificabilità dell'individuo alla specie, laddove si rende evidente il doppio standard antropocentrico e creazionista nel momento in cui tra umani, almeno oggi a livello teorico, mai perseguiremmo apertamente una tale logica. Gli altari sacrificali a scapito dell'individuo da sottomettere, a favore della patria, dell'imperialismo, del colonialismo e pure della famiglia, sono tipici dei regimi totalitari, capitalisti e patriarcali. Avendo un'ottica abolizionista riguardo al sistema carcerario, la estendiamo in una cornice multispecie a coloro che a Trento sono privati della propria libertà, del proprio diritto ad autodeterminarsi in un progetto di vita, a coloro che sono fuggite e sono stati ricatturate, che sono fuggite ancora e sono state ricatturate e continueranno a fuggire, perché la resistenza animale è diventata storia. La pericolosità è il marchio di coloro che difendono se stessi e la propria casa, i propri parenti e le proprie amiche e amici, il proprio popolo dagli assalti colonizzatori. Buonsenso diventa la normalizzazione della deportazione, il trasferimento coatto, come successo a DJ3, ora detenuta in uno zoo tedesco. L'ideologia del padrone è sempre trasparente, ovvero spacciata per neutra. La smascheriamo come tale e riconosciamo non da ultimo la maternità, la mentalità estrattivista che ha portato il pianeta al collasso, ai danni di ogni specie. Crediamo in approcci multipli e differenziati che includano la disobbedienza civile e la rottura degli ingranaggi. L'obbedienza non è mai stata una virtù. Yes, it's wake up time. Hey, yo, wake up. Time to get up and go to work. Right, time to burn, boom, boom. Adesso ci ascoltiamo un bel brano politicamente incorretta. A man with a Rebecca Lane. Ultima dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelet con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando. Yo soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis. La radio soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde. Por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas. Versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echando impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Torniamo in voce dopo questo bel brano effettivamente di Rebecca Lane, per tornare a parlare di macachi. Ne abbiamo già parlato nella nostra trasmissione, abbiamo parlato anche della liberazione che c'è stata ultimamente dei tre macachi liberati dagli anfratti di Borgo Roma, ma quello che mi ha colpito è un articolo che è uscito recentemente che parla un po' della storia della loro liberazione, quindi mi piaceva leggere questa parte iniziale dell'articolo. Lucio non capiva cosa fosse quell'acqua. quella che non arrivava da un abbeveratoio, ma da un cielo, che, anche quello, era una rivelazione. Gli bagnava il pelo, quella strana acqua. Lui l'ha leccata, e così Lucio Sabato ha scoperto la pioggia. Anche Charlie ha scoperto qualcosa. Charlie, tra i 3 macachi che sono stati liberati l'altro giorno dagli anfratti del Policlinico di Borgo Roma, è il più anziano. 30 anni negli stabulari del Dipartimento di Neuroscienze. Anzi, in una gabbia del Dipartimento di Neuroscienze. Li ha voluti liberi la stessa università. A Charlie sono stati tolti gli elettrodi impiantati nel cervello per uno studio sui disturbi dell'attenzione. Gli rimane una cicatrice sopra la testa, dove il pelo stenta a crescere, ma non gli hanno espiantato la sofferenza. Charlie è diffidente. Alle scimmie nude, che sono gli uomini, offre la schiena più che il volto, e quando li guarda ha il dolore incastonato negli occhi. Ma anche Charlie la sua scoperta l'ha fatta. Sono i tronchi. Lui, che non si è mai potuto arrampicare su un albero, si è inerpicato su dei grossi rami, quelli che gli garantiscono una certa distanza dagli umani. L'unico che non ha ancora scoperto qualcosa è Bob. Troppo incazzato Bob per quel trasferimento, a dimostrazione di come anche la peggiore delle prigioni col tempo diventi una casa. Ha ragione, per lui non siamo degli amici, dice uno degli esperti che lo seguirà nel centro specializzato della LAV a Semproniano, in provincia di Grosseto. Già, non ci sono ancora degli amici per Bob, Charlie e Lucio, quelle donne e quegli uomini che le hanno portati via dagli stabulari e che, nonostante tutto, era l'unico universo che conoscevano. Gli ci vorrà del tempo per capire che non tutti gli umani li usano. A pochi metri dalle grandi stanze in cui vivono adesso e da quel giardino dove stanno scoprendo una natura di cui sono stati resi orfani, ci sono altri 16 macachi. Quelli dell'Università di Modena, i primi ad essere liberati, e dopo di loro quelli dell'Ateneo di Padova. E poi, pochi giorni fa, Bob, Lucio e Charlie. E l'articolo continua. Quello che mi ha colpito è sicuramente come nell'articolo si evidenzia, nonostante, diciamo, si evidenzia anche che sia stata volontà dell'università quella di liberarli, ma ahimè non sottolinea come sia stata volontà dell'università rinchiuderli e sottoporli a queste sevizie. Ma quello che mi piaceva era, da un lato, rende vividamente l'idea del fatto che questi animali sono stati privati di tutto, perfino della visione del cielo, del conoscere la pioggia, così come anche il fatto che, e questa è purtroppo una triste realtà per tutti gli esseri umani e non umani che vengono sottoposti a detenzione e spesso anche a torture e sevizie, che quando l'unica realtà che tu conosci è quella di un carcere, quando l'unica realtà che conosce la prigionia o la tortura, perfino quella può arrivare a mancarti. L'articolo continua parlando del fatto che questi macachi sono appunto insieme ad altri macachi. Mi sono incuriosita e ho cercato di capire perché questi macachi fossero poi stati ricondotti insieme ad altri, pur restando separati in stanze separate, ed ho purtroppo scoperto perché. Dico purtroppo perché, per quanto abbiano riacquisito la libertà o altro, o altre possibilità di vita rispetto a quella della prigionia che conoscevano, è pur vero che questi macachi insieme agli altri continueranno ad essere oggetto di studi. Adesso gli scienziati e le scienziate li studieranno per vedere come appunto reagiscono le specie, le altre specie, a dopo essere stati sottoposti a una lunga prigionia, al riacquistare una libertà. Ma quindi davvero è così indispensabile continuare a studiarli in tutti i modi possibili e immaginabili? Rebecca Lane, ultima dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Per questa sera abbiamo finito, è tutto.